tempi cambiano e non si resta legati a un'immagine che non è più mia. Di ieri, oppure ti lascerai andare in me come combattere. Ma quanti anni hai? Ma quanti non lo sai? Solo che ora è tua.